ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto Mondo. You don't do this in an election year. I don't disagree with that. That's what I'm just trying to get you to concede. This is really about who has the votes and who has the power at any given time, right? So no, actually it isn't. Eccoci qua, Giulia, buongiorno. Cos'è buongiorno. Che ci hai fatto ascoltare? Abbiamo sentito le parole di Ted Cruz, che forse qualcuno ricorda, era stato un avversario di Donald Trump alle primarie del 2016 per la corsa alle presidenziali. Poi la scelta era caduta su Donald Trump. È senatore del Texas, lo è dal 2013. Nel 2016, è il primo pezzetto che abbiamo sentito, quando morì il giudice della Corte Suprema Anthony Scalia e era presidente Barack Obama, ma era un election year. Il Ted Cruz disse: non si fanno queste nomine in un anno di elezioni. La seconda parte che avete sentito è un'intervista concessa ieri a Fox News, dove ha cambiato completamente idea Ted Cruz e il giornalista gli dice: quindi stiamo dicendo che è semplicemente una questione di potere. Avete sentito che, non dico balbetti ma quasi, perché negli Stati Uniti insomma ci sono giornalisti anche di una televisione come Fox News che vogliono delle risposte chiare alle domande e tutti i network americani stanno mandando gli audio del 2016 di Ted Cruz, di Mitch McConnell e di Chuck Schumer, tre repubblicani che all'epoca si opposero in tutti i modi alla nomina in un anno di elezioni di un giudice della Corte Suprema. Ne parlano tutti i giornali americani. Abbiamo sentito prima un costituzionalista italiano. Ecco, anche la Costituzione americana è molto complicata. Risale alla fine del Settecento e prevede appunto che i giudici siano nominati. Noi diciamo a vita, in realtà io sono andata a vedermi l'articolo 3 e ne parlano tanto anche i giornali americani della Costituzione. In realtà il termine usato è che devono restare in carica finché sono in good behavior, cioè che naturalmente aveva un senso nel 1700, quando tra l'altro le aspettative di vita non erano certo quelle di oggi. Quindi questa questione sta riaprendo tutto il tema di come vengono nominati i giudici della Corte Suprema. Ma perché Trump è così? Perché arriviamo alla notizia che poi è quella Chicago, di Trump. Il Chicago Tribune dice: entro la settimana ci dovrebbe essere questo nome. Molto probabilmente dovrebbe essere Amy Coney Barrett, che è un'antiabortista, una giudice in questo momento. Lei è qui, appunto, il Chicago Tribune è giudice della prima sezione del Tribunale di Chicago e probabilmente sarà lei. Perché però, oltre al fatto di strizzare l'occhio a quell'elettorato ultraconservatore che non è pro-choice ma è pro-life, cioè è anti-abortista, nel 2000, e andiamo ancora indietro nel tempo, elezioni Gore-Bush, lo ricordate? Per giorni e giorni e giorni non si seppe chi aveva vinto. In quel caso la Corte Suprema ebbe un ruolo fondamentale, poiché comunque queste elezioni saranno delicate, lo abbiamo detto tante volte. Per Trump è molto importante avere, lo spiegano il New York Times, lo spiega il Washington Post, lo spiega anche il Wall Street Journal, una Corte Suprema tra virgolette amica, quindi con un giudice di fresca nomina e dove naturalmente scelto da Donald Trump. È una vicenda insomma molto complessa, ingarbugliata, ma è sempre poi la politica americana che ci racconti ogni giorno, sì, Giulia. Sì, tra l'altro comunque anche lì insomma c'è il tema del Covid, superata questa soglia psicologica dei 200.000 morti, ne parla il Wall Street Journal in prima pagina, ci sono tanti allarmi. Mentre guardavo la prima pagina del Chicago Tribune mi è caduto l'occhio su questo articolo che ti sorprendo, non ti avevo segnalato prima, ma è l'allarme del CTU, che è la Children's Teacher Unions, uno dei più importanti sindacati degli insegnanti, che cominciano a lanciare l'allarme su quanto tempo, troppo, i bambini piccoli, quindi con ancora gli occhi in pieno sviluppo, passano davanti allo schermo. Questo è un altro tema, cioè la didattica a distanza, lo sappiamo, non può sostituire quella in presenza, e però anche negli Stati Uniti sta succedendo, ovviamente. Supplisce per ora, forse anche troppo. Ancora notizie diciamo in primo piano sempre sui giornali americani dagli Stati Uniti il Wall Street Journal, oltre a dar conto di questo tema della Corte Costituzionale parla anche di questo accordo siglato ieri da un fondo che ha preso una quota importante di Comcast, che è, fa parte di quel risico delle telecomunicazioni che naturalmente sappiamo è importantissimo in questo momento. Ci sono anche però, se, attraversando l'Atlantico, abbiamo detto del Covid, tutti i giornali britannici aprono con queste nuove regole, questo 10 p.m. curfew, cioè questa coprifuoco delle 10 di sera per i pubs e i restaurants. È l'ultimo, così la spiegano un po' tutti i commentatori, l'ultimo tentativo per evitare un lockdown vero e proprio, cioè la chiusura di tutte le attività commerciali e dei ristoranti. Tra l'altro sul Times c'è la foto di Boris Johnson tutto vestito di nero che fa jogging, perché sapete, lui insomma ha ammesso lui stesso che i medici gli hanno consigliato, in particolare dopo aver avuto il Covid, di perdere qualche chilo, ma non è facile. Questa cosa che hai detto comunque sul fatto che in Gran Bretagna si stia cercando di volta in volta, con misure sempre più restrittive, di evitare un lockdown definitivo, mi ricorda un po' quello che accadde anche da noi, ti ricordi a marzo, quando prima le attività economiche, poi, certo, le attività commerciali, insomma piano piano si chiudeva sempre di più sperando di evitare il lockdown. Ci siamo arrivati, speriamo che non sia, diciamo, la riproposizione di quella fase lì, anche almeno perché, per la Gran Bretagna, noi fortunatamente per ora non sembrerebbe. Tra l'altro questo tema, insomma, del cercare in tutti i modi di prevenire il lockdown, sì, Metro ha in prima pagina la foto di un membro del Parlamento del Partito Conservatore che si è fatto fotografare, si è fatto beccare in treno dove la mascherina è obbligatoria, senza mascherina. E poi c'è questo gioco di parole, The Pand Emmys, cioè gli Emmy Awards, che sono, ai tempi della pandemia, come sapete, sono stati virtuali e sono stati tutti diciamo immortalati e trasmessi dalla vita in su, e questo insomma ha fatto un po' sorridere, per avere un po' di leggerezza, insomma, questi Emmys al tempo della pandemia. Ci fai sentire anche un'altra voce, quella, sì, di chi? Perché a proposito di mascherine, noi siamo stati i primi ad andare a votare, noi in Italia, dopo il lockdown. Prossimi succederà in Nuova Zelanda, e sentiamo la voce della premier, dell'attuale premier Jacinta Ardern, che è in piena campagna elettorale. My view is that politics is not a blood sport. It is a chance for people to see what our ambitions are, where we want to take New Zealand, and I think we had the platform for that tonight. Piccola traduzione. È fantastico l'accento neozelandese. Lei era reduce dal primo confronto diretto con la sua principale rivale, che è una donna a sua volta, è la leader del partito del Labour, mentre Jacinda è del Conservatori. E le hanno detto: ma non siete sembrate tanto aggressive? E lei dice: ma io non concepisco la politica come uno sport di sangue, dove deve scorrere il blood, sangue, capito, sì. blood sport. E dice: in fondo, pensateci, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, di far capire, io la adoro, perché ha questo modo di fare, proprio ve lo ricorderete tutti dopo quel terribile attentato che fece molti morti di religione, di fede islamica in una moschea, e insomma ricorderete il suo atteggiamento di estremo rispetto e anche di grande presenza e di grande partecipazione emotiva. Ha dimostrato grande leadership dal momento della pandemia. La Nuova Zelanda ha avuto sì dei nuovi focolai, ma resta un paese dove sono morte pochissime persone. Però lei a sua volta in campagna elettorale si è fatta beccare senza mascherina, e stanno usando questa cosa come una delle forse poche armi che hanno, perché di fatto, anche se poi c'è il tema delle conseguenze economiche del lockdown, che sicuramente avrà un ruolo molto importante in queste elezioni. Grazie Giulia, è tutta la puntata di oggi, ci risentiamo domani, ciao, buona giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.